In quel momento accadde un incidente inatteso. Un lacchè venne a dire a Rachel che la figlia e il genero della Berma chiedevano di parlarle. Abbiamo visto come la figlia della Berma avesse resistito al desiderio del marito di sollecitare un invito da Rachel. Ma dopo che il giovanotto se n'era andato, il fastidio della giovane coppia nei confronti della madre s'era acuito. Il pensiero che altri si divertissero li tormentava. In breve, approfittando d'un momento in cui la Berma s'era ritirata in camera sua a sputare un po' di sangue, avevano indossato in fretta e furia dei vestiti più eleganti e, fatta chiamare una carrozza, erano venuti dalla principessa di Guermont senza essere invitati. Rachel, intuendo la situazione e segretamente lusingata, prese un tono arrogante e disse alla lacchè che non poteva essere disturbata, che le scrivessero per spiegare la ragione del loro insolito passo. Il lacchè tornò con un biglietto da visita su cui la figlia della Berma aveva scarabocchiato che lei e il marito non avevano potuto resistere al desiderio di ascoltare Rachel e le chiedevano di lasciarli entrare. Rachel sorrise della goffaggine del pretesto e del proprio trionfo. Fece rispondere che era desolata, ma la recita era finita. Già nell'anticamera dove si prolungava l'attesa della coppia, i lacchè cominciavano a burlarsi dei due postulanti respinti. La vergogna d'un affronto, il ricordo del niente che era Rachel in confronto a sua madre, spinsero la figlia della Berma a portare sino in fondo un passo che aveva arrischiato all'inizio per il semplice bisogno d'un piacere. Fece chiedere come un favore a Rachel, anche se non poteva più sentirla, il permesso di stringerle la mano. Rachel stava conversando con un principe italiano, sedotto, si diceva, dal fascino del suo cospicuo patrimonio, di cui un certo numero di relazioni mondane dissimulava un poco l'origine. Assaporò il rovesciamento di situazione che in quel momento metteva i figli dell'illustre Berma ai suoi piedi. Dopo aver raccontato a tutti, in modo piacevole, l'incidente, fece dire alla giovane coppia di entrare, cosa che i due fecero senza farsi pregare, rovinando in un sol colpo la posizione sociale della Berma, come avevano distrutto la sua salute. Rachel l'aveva capito, come aveva capito che la sua condiscendente cortesia avrebbe dato in società a lei maggior reputazione di bontà, alla giovane coppia di bassezza, di quanto avrebbe potuto un suo rifiuto. Così li ricevette con affettazione a braccia aperte, dicendo col tono d'una protettrice invidiata che sa dimenticare la propria grandezza: «Ma certo, è una gioia, la principessa sarà felice». Non sapendo che nell'ambiente del teatro si credeva che fosse stata lei a invitare, aveva forse temuto che negando l'accesso ai figli della Berma questi potessero dubitare non della sua buona volontà, cosa che le sarebbe stata indifferente, ma della sua influenza. La duchessa di Guermont si allontanò istintivamente, perché più uno dava l'impressione di cercare il gran mondo e più si abbassava nella stima della duchessa. Non ne aveva, in quel momento, che per la bontà di Rachel, e avrebbe voltato la schiena ai figli della Berma se qualcuno glieli avesse presentati. Rachel, intanto, già componeva mentalmente la frase graziosa con cui il giorno dopo, dietro le quinte, avrebbe subissato la Berma. «Sono dispiaciuta, desolata, d'aver fatto fare anticamera a vostra figlia. Se avessi capito, mi mandava biglietti su biglietti». Era felice di dare quel colpo alla Berma. Forse avrebbe esitato se avesse saputo che era un colpo mortale. «Ci piace fare delle vittime». Ma senza metterci del tutto dalla parte del torto, lasciandole sopravvivere. D'altronde, in cosa consisteva il suo torto? Qualche giorno dopo, ridendo, avrebbe detto: «Questa è davvero grossa. Ho voluto essere più gentile con i suoi figli di quanto lei sia mai stata con me e a momenti mi si accusa di averla assassinata. Ne prendo a testimone la duchessa». Sembra che tutti i cattivi sentimenti degli attori e tutta la falsità della vita di teatro passino nei loro figli, con l'aggravante che in questi non c'è, come per la madre, il diversivo del lavoro ostinato. Le grandi attrici muoiono spesso vittime dei complotti domestici orditi attorno a loro, come succedeva tante volte alla fine delle tragedie che recitavano. La vita della duchessa non smetteva peraltro d'essere molto infelice, e per una ragione che aveva del resto come conseguenza di declassare, in modo parallelo, l'ambiente frequentato dal signor di Guermont. Questi, che da tempo, calmato dall'età avanzata e pur essendo ancora robusto, aveva smesso di tradire Madame de Guermont, si era innamorato di Madame de Faucheville senza che si conoscessero bene gli inizi di questa relazione. Se si pensava all'età che doveva avere ormai Madame de Faucheville, la cosa appariva straordinaria. Ma forse Odette, quando aveva cominciato la sua vita di donna galante, era giovanissima. E poi ci sono donne che ritroviamo ad ogni decade in una nuova incarnazione, alle prese con nuovi amori quando già, magari, le si credeva morte, e causa della disperazione di qualche giovane sposa abbandonata per loro dal marito. Ma questa storia aveva assunto proporzioni tali che il vecchio, imitando in quest'ultimo i modi dei suoi amori d'un tempo, sequestrava l'amante, tanto che se il mio amore per Albertine aveva ripetuto, con notevoli variazioni, quello di Swann per Odette, l'amore del signor di Guermont ricordava il mio per Albertine. Bisognava che facesse colazione, che pranzasse con lui. Lui era sempre a casa sua. Lei se ne faceva bella con gli amici che altrimenti non avrebbero mai avuto alcun rapporto con il duca di Guermont e che andavano da lei per conoscerlo, un po' come si va da una cocotte per conoscere un sovrano che è suo amante. Certo, Madame de Faucheville era diventata da tempo una donna del gran mondo, ma ricominciando, sul tardi, a farsi mantenere, e da un così orgoglioso vegliardo, che era comunque in casa di lei il personaggio importante, si abbassava a cercare soltanto di mettersi le vestaglie che gli piacevano, di offrirgli la cucina che preferiva, a lusingare gli amici dicendo che gli aveva parlato di loro, come faceva con il mio prozio, quando gli diceva di aver parlato di lui al granduca che le mandava delle sigarette. In una parola tendeva, malgrado tutta la posizione mondana acquisita, a ridiventare, per la forza delle nuove circostanze, quale era apparsa alla mia infanzia, la signora in rosa. Certo, erano molti anni che mio zio Adolfo era morto, ma il fatto che intorno a noi altre persone abbiano sostituito le vecchie ci impedisce forse di ricominciare la stessa vita. A quelle nuove circostanze Odette si era prestata, non c'è dubbio, per avidità, ma anche perché, molto ricercata in società quando aveva una figlia da sposare, lasciata da parte dopo il matrimonio di Gilbert con Saint-Louis, aveva sentito che il duca di Guermont, che per lei avrebbe fatto qualsiasi cosa, le avrebbe portato in casa una quantità di duchesse, felici forse di poter fare un bello scherzo all'amica Orion. Forse stuzzicata, infine, dal dispiacere della duchessa, sulla quale per un sentimento di femminile rivalità la inebriava prevalere. Questa relazione con Madame de Faucheville, relazione che altro non era se non un'imitazione delle sue relazioni d'un tempo, aveva fatto perdere al duca di Guermont, per la seconda volta, la presidenza del giochi e un seggio di membro libero all'Académie des Beaux-Arts, così come la vita del signor di Charlus, pubblicamente associata a quella di Jupien, aveva fatto sì che gli sfuggissero la presidenza dell'Union e anche quella della Société des Amis de Vieux Paris. Così i due fratelli, tanto diversi nei loro gusti, erano arrivati al discredito a causa d'una stessa indolenza, d'una stessa mancanza di volontà, già sensibile, ma in modo gradevole, nel duca di Guermont, loro nonno, membro dell'Académie française, ma che nei due nipoti aveva consentito a un'inclinazione naturale, e a un'altra che passa per non esserlo, di desocializzarli. Fino alla sua morte, Saint-Leu aveva fedelmente portato là sua moglie. Non erano forse, loro due, gli eredi tanto del signor di Guermont quanto di Odette, la quale d'altronde sarebbe stata probabilmente la principale erede del duca. Del resto, persino certi nipoti Courvoisier molto schizzinosi, Madame de Marsan, la principessa di Tragnas, ci andavano, sperando in un'eredità, senza pensare al dispiacere che potevano dare a Madame de Guermont, di cui Odette, punta dal suo disprezzo, sparlava. Il vecchio duca di Guermont non usciva più, perché passava le sue giornate e le sue serate da lei. Ma oggi era venuto un momento per vedere lei, malgrado il fastidio di incontrare la moglie. Non mi ero accorto di lui, e certo non lo avrei riconosciuto se non me lo avessero indicato chiaramente. Non era più che un rudere, ma superbo. Anzi, meno ancora d'un rudere. Quella bella cosa romantica che può essere una roccia nella tempesta. Sferzato da ogni parte dalle ondate di sofferenza, di collera del soffrire, di inarrestabile marea della morte che lo circondavano, il suo volto, sgretolato come un masso, serbava lo stile, la linea che avevo sempre ammirati. Era corroso come una di quelle belle teste antiche in estrema rovina, ma di cui siamo estremamente felici di poter ornare il nostro studio. Sembrava semplicemente appartenere, rispetto a una volta, a un'epoca più antica, non solo a causa di ciò che aveva preso di ruvido e di rotto nella sua materia un tempo più brillante, ma perché all'espressione penetrante e vivace era succeduta, plasmata dalla malattia, un'involontaria, inconsapevole espressione di lotta contro la morte, resistenza, difficoltà di vivere. Le arterie, perduta ogni elasticità, avevano dato al viso, un tempo disteso, una durezza scultorea, e senza che il duca se ne rendesse conto, svelava nella nuca, nella guancia, nella fronte, aspetti in cui l'essere, come costretto ad aggrapparsi accanitamente a ciascun minuto, sembrava travolto da una tragica raffica, mentre le ciocche bianche della sua stupenda capigliatura, fattasi meno folta, schiaffeggiavano con la loro schiuma l'invaso promontorio del volto. E come quei riflessi strani, unici, che solo l'approssimarsi della tempesta in cui tutto verrà sommerso dà alle rocce rimaste sino a quel momento d'un altro colore, capii che il grigio plumbeo delle guance logore e irrigidite, il grigio quasi bianco e increspato delle ciocche sollevate, la fievole luce ancora concessa agli occhi che vedevano appena, erano colori non già irreali, semmai, al contrario, sin troppo reali, ma fantastici, e attinti alla tavolozza, inimitabile nelle sue nerezze spaventose e profetiche, della vecchiaia, della vicinanza della morte. Il duca non rimase che pochi minuti, abbastanza perché mi rendessi conto che Odette, tutta presa da spasimanti più giovani, se ne infischiava di lui. Ma, cosa singolare, lui, che un tempo era quasi ridicolo quando prendeva i modi d'un re da teatro, aveva assunto un aspetto di autentica grandezza, un po' come suo fratello, al quale la vecchiaia, spogliandolo di tutto quanto era secondario, lo faceva assomigliare. E, come suo fratello, sembrava lui un tempo tanto, benché diversamente, superbo, quasi irrispettoso, benché, di nuovo, in un modo differente. E infatti non aveva subito il decadimento del fratello, ridotto a salutare con una cortesia da malato, privo di memoria, persone che avrebbe un tempo disdegnate, ma era molto vecchio, e quando volle oltrepassare la porta e scendere le scale per andarsene, La vecchiaia, che è pur sempre per gli uomini il più miserevole degli stati e li fa precipitare dai loro fastigi nel modo più simile ai re delle tragedie greche, la vecchiaia, obbligandolo a sostare lungo la via Crucis, che diventa la vita degli impotenti minacciati, ad asciugarsi la fronte grondante, a brancolare cercando con gli occhi un gradino che sfuggiva, perché per i suoi passi malcerti, per i suoi occhi annebbiati, avrebbe avuto bisogno d'un sostegno, la vecchiaia, dandogli a sua insaputa l'espressione di chi implora dolcemente e timidamente gli altri, l'aveva reso, ancor più che a Augusto, supplichevole. Non potendo fare a meno di Odette, sempre installato in casa sua sulla stessa poltrona da cui per la vecchiaia e la gotta poteva alzarsi a stento, il signor di Germain lasciava che lei ricevesse amici sin troppo contenti d'essere presentati al duca, di lasciarlo parlare, di sentirlo raccontare della vecchia società, della marchesa di Villeparisis, del duca di Chartres.